Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. E oggi che giorno è? Sì, K. Cosa? Sì, che giorno è? È venerdì. E allora che cosa ci facciamo qui? Secondo te? Non lo so, lo chiedo a te, Drago. Facciamo... È venerdì, non quindi lo so. Facciamo Chiedo Asilo, K, come ogni giorno a quest'ora. Quindi, no, ma no, perché oggi non esistiamo, in quanto oggi è venerdì. Venerdì è notoriamente il giorno che non esiste, sì, no? E quindi intanto oggi non esistiamo. Non esistiamo. E quindi perché siamo qui che parliamo? Comincia a stare, ecco, Tito. Neanche Tito stai esiste. Buono. È composto qui per 10 minuti davanti al microfono, poi ne riparliamo. Allora, la Siria. Ma che cosa? La cantante? No, la Siria in quanto nazione. Che cosa sappiamo della Siria? Boh, ma Drag, però anche tu, scusa, venerdì, allora, la Siria. Almeno la cantante, no? No, io voglio parlare della Siria. Allora, sappiamo che, cosa che sai il presidente della Siria sembra Frank Zappa quando era giovane. Okay. Sembra anche un po' Fabio Fazio coi baffi. Quando era giovane anche lui. E poi? Cosa sappiamo? E poi basta, dai, a parte le ribellioni di sto periodo. Appunto, cosa a parte le ribellioni. Che cosa sappiamo della Siria? Sono 50 anni che non ne sappiamo niente. Stanno chiusi in un isolamento bestiale. Mai conosciuto un siriano tu? Mai parlato con un siriano? No, no. Marocchini, egiziani, tunisini, somali sì. Siriani no. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire so. Che lì le cose non vanno bene. Quando in una nazione non succede mai niente, i casi sono due. O va tutto troppo bene o va tutto troppo male. Tipo la Svezia e la Birmania. La Finlandia e la Mongolia sono paesi di cui non si parla mai per motivi diversi, però perché non gliene frega niente a nessuno che diversi è sempre l'unico motivo. Comunque siamo qui per parlare di infantilismo. No, ha ragione, cosa c'entra la Siria adesso? No, perché sembra che le proteste scoppiate a Daraa in Siria siano state innescate dagli slogan contro il regime di Damasco scritti sui muri proprio da alcuni bambini, capito? Il Financial Times scrive che questi bambini hanno scritto questi slogan dopo aver visto in TV le immagini sulle rivolte in corso nel mondo arabo. Hanno visto per Tunisia. Imitazione. Esatto, sì. E magari non sapevano neanche cosa stavano scrivendo. Questo non si sa. Libertà, democrazia, tiranno, vattene. Infatti li hanno arrestati. Ma come? I bambini? Sì, in Siria non si scherza, se sgarri vai dentro. Ma erano bambini. Infatti poi i familiari hanno cominciato a protestare, prima per l'arresto dei bambini e poi in generale sulla situazione. E quella sarebbe, dicono questi giornali, sarebbe stata la scintilla delle manifestazioni di piazza contro il governo. Quindi la Siria salvata dai bambini. Salvata. Senti cosa ti auguro. Che ti cadesse un fulmine da un cielo di tempesta. E se oggi il cielo è limpido, almeno qualche rondine te la sganciasse in testa. Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Vabbè, ricreazione, quindi intervista News and Talk al bambino Alberto, tanto sì, per cambiare. Soprattutto news. Bambino Albenga, ci sei? Ecco, allora, tu sai già cosa vuoi fare da grande? Questa è la domanda che bella facile. Domanda, da guarda. Bambini, facile e puoi anche sbizzarrirti con la fantasia. Beh, la cosa che mi piacerebbe di più è costruire una macchina del tempo. Bello. Anche a me piacerebbe molto. E tu in che momento storico vorresti vivere? Allora, tanti, Però prima di tutto il momento storico in cui i miei genitori si sono conosciuti. Tipo Ritorno al futuro, no? No, niente, un film. Lascia stare. Perché vorrei riuscire, cioè, con la macchina, andare al tempo in cui loro si sono conosciuti e impedire che si conoscano, no? Però vedi che poi è un paradosso questo. Oppure impedire che diventino comunisti. Perché alla fine non è che sono due cattivi diavoli, però sono comunisti. Ho capito. Vabbè. Quindi macchina del tempo a parte invece, che a parte che voglio dire, se non si conoscono i tuoi, tu non esisti, quindi ti conviene cambiare idea. Perché... Vabbè, ma piuttosto che così, meglio così. Dai. Ma a parte la macchina del tempo, da grande cosa vorresti fare? Perché questa è, diciamo, il nucleo della domanda brillante di Drago, è questa. Che lavoro vorresti fare? Che bello, l'astronauta, il pilota che fa i rally. Lavoro. Ma scusate, mi dite di fantasticare. Allora, se io posso immaginare quello che voglio, mica mi metto in testa di lavorare, no? Non lo so. Mi vedo in un'altra veste. E cioè? Mi immagino che da grande non lavorerò. Cioè fai il disoccupato bamboccione. Ma no, non in quel senso. Non lavorerò, però farò tante cose, no? Certo. Potrò fare tutto quello che voglio. Non so, potrei andare a Euro Disney per un paio di mesi, no? Uno o due mesi. Due mesi. Vabbè, ma ci sono un sacco di giochi lì, Forse non bastano neanche per provare tutti due mesi. Con che soldi ci vai? Sì, infatti, cioè, bambino Albanberghi, metti invece che il tuo futuro è un futuro normale, cioè un futuro in cui dovrai lavorare come tutti e quindi devi scegliere un lavoro. Cosa vorresti fare? Il medico, l'avvocato, il giornalista, l'astronauta? Il pilota che Se proprio devo scegliere, il bidello. Ma come? Il bidello? Ah, proprio un lavoro di concetto, il bidello. Perché? Cioè, che male c'è a fare il bidello? Guardate Gino. Sì, però guarda che Gino è un ex carcerato che adesso fa il bidello. Cioè, per lui fare il bidello è una figata, è un'occasione per rifarsi una vita, mica la scelta così. Vabbè, cioè, io posso anche fare il bidello senza andare prima in galera, no? Beh, sì. Cioè, adesso tutti i bidelli d'Italia sono stati in galera prima di fare il bidello. No, certo. E allora? Quindi faresti il bidello, sì. Cioè, quindi cosa dovresti fare? Cerchiamo di immaginare un attimo. Scusa, dovresti mettere in ordine le classi, spazi l'ingresso, svuoti i cestini della spazzatura, stai attento che i bambini non scappino fuori dall'asilo. Un attimo. Allora, prima di tutto, i lavori tipo spazzare l'ingresso e mettere in ordine, roba di quel tipo lì, è quella l'appalto, no? Cioè, non la farei io. Darei qualcosina a un altro che fa quei lavori lì. A un altro, a uno che passa per strada. No, lo trovo all'interno dell'asilo, no? Un bambino che. Ma come un bambino? Ma qualcuno! Ma qualcuno! Ma quello non è un problema. Ma quando... non è che possono entrare tutti in un asilo, bambino Albrigi. Qualcuno lo troverò, no? Che in cambio di un conquibus. Ma perché? Cioè, volevi fare il bidello perché allora? Fare il bidello e fare quella roba lì. L'avete detto anche voi prima. Mi hai detto pulire, ordinare e controllare che i bambini non scappino. Quello mi piace. E lì devo controllare una specie di sceriffo, no? Sì. Lo sceriffo dell'asilo. Sì, lì ho un'autorità, no? E lì mi piace. Appena ne vedo uno che scappa, lo posso prendere per la calottola perché ho l'autorità. Quindi potresti fare il poliziotto, altro che il bidello, quindi. No, però c'è il segreto, perché lì all'asilo potrei anche essere l'amichetto della maestra Poppona, Vabbè, su quello guarda che non sarei tanto sicuro, Ma perché? Scusate. Gino il bidello è sempre chiuso nel suo ufficetto con la maestra Poppona, no? Sì, ma vedi, allora, c'è questo misunderstanding tra le funzioni, no, del presidente del consiglio, cioè del bidello e la qualità di bidello. Cioè lui è nell'ufficio con la Poppona in qualità di bidello. Di bidello, però quello che fa con la Poppona non sono le sue funzioni. Non sono, hai capito? Le sue funzioni, no? Di bidello. Quindi hai capito, cioè, Alberto, quindi? Cioè, non è che quello è il lavoro di bidello comprenda anche la maestra Poppona. No. Ma come no? Dai, allora devi fare, è noioso fare il bidello, lascia perdere, è faticoso poi. Non è che chiacchieri con la maestra Poppona e finita lì. Chiacchi, quello può capitare se sei Gino il bidello. No, allora no. Bambino Alberto bidello non potresti avere. Esatto, no. Allora facciamo così, non voglio fare il bidello. Vuoi fare? Voglio fare un lavoro che preveda, perché ci sarà un lavoro, che preveda che in certi momenti puoi stare in un ufficetto con la maestra Poppona. Sì, guarda che non c'è un lavoro che prevede quello, bambino Altavista. Per fare quello devi diventare il marito della maestra Poppona. Ma la maestra Poppona è troppo grande. Beh, per marito, cioè basta essere la maestra. E poi è già sposata. Ah, è già sposata. Sì, e quindi con Gino, capito? Va bene, ok. No, capito. Cosa? No, niente. No, dai, ditemelo. Capo, dai, cosa stavi per dire? No, dimmelo. Dai, sei troppo piccolo, dai, sei troppo piccolo per tutto, né? Sia per la maestra Poppona che per sentire certi discorsi. Lascia stare, dai. Quindi adesso vai. Sludge, dai, torna a giocare con i tuoi amichetti, che così giochiamo un po' anche noi. In questi discorsi. Giochiamo un po' anche noi, no? Ma quali amichetti? Quali amichetti? Ah, Gildo, eccoti qua. Eccoti qua. Ebbene, dove sei stato fino adesso? Fino adesso. E dove sei stato? Dalla maestra Poppona. Come dalla maestra Poppona? E come? Nell'ufficetto? Ufficetto. E c'era anche Gino? No. Eravate voi due soli? Ma cosa avete fatto? Pane! Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma! Chiedo asilo. Un programma di Cappa e Drago. Cappa, sì, va bene. I giochi più deficienti, più idioti, guarda, la bottiglia... Che rimbalza, guarda. Rimbalza. Sarà che si rovina anche il tavolo. Ma non è vero. Ce lo fanno pagare. Torniamo domani, dai, dillo. Daniela Banana. Ecco, mandate i vostri curriculum per diventare bidelli qui all'asilo Stoppani, Asilo Radio 24. Asilo Stoppani. Ecco, mandateli a chiedoasilo@radio24.it e tu smettila.